Capitolo 3. Windy Willows, Spokes Lane, October 25. Caro Gilbert, ci crederesti? Sono stata a cena a Maplehurst. La signorina Ellen ha scritto l'invito di suo pugno. Rebecca Dew era emozionatissima. Non sperava che mi avrebbero mai presa in considerazione. E secondo lei non era un atto di cortesia. Oh, devono avere di certo qualche scopo sinistro, esclamò. A dire il vero, anch'io nutrivo dubbi simili. Mi raccomando, si metta il vestito della festa, ordinò Rebecca Dew. Così ho indossato l'abito bello color panna con le violette e mi sono pettinata nel nuovo modo con l'onda sulla fronte. Mi dona, caro Gilbert. Le signorine di Maplehurst, a modo loro, sono proprio straordinarie. Mi sentirei di voler loro bene se me lo consentissero. Maplehurst è una casa orgogliosa e riservata che sta ritirata tra i suoi alberi e non si mischia con le case normali. Nel frutteto ha una grande polena di legno bianco della famosa nave del fu capitano Abraham. La chiedilo a lei, si chiama. E accanto agli scalini dell'ingresso, nuvole di artemisia portata dal vecchio continente più di 100 anni fa, dal primo Pringle emigrato qui. Hanno un altro antenato che combatté nella battaglia di Minden e la sua spada è appesa in salotto, vicino al ritratto del capitano Abraham. Le due signorine sono figlie del capitano Abraham e ne sono palesemente ed enormemente fiere. Hanno sontuose specchiere sopra antichi camini neri scanalati, una campana di vetro con fiori di cera, quadri con belle navi dei tempi andati, una ghirlanda con i capelli di tutti i Pringle, grandi conchiglie a spirale e una trapunta sul letto degli ospiti con il motivo di minuscoli ventagli. Mi hanno ricevuta nel salotto buono, ammobiliato con sedie di mogano di stile Sheraton. Alle pareti c'era una tappezzeria a strisce color argento e alle finestre pesanti tende di broccato, tavoli con il piano di marmo, uno con il bel modellino di una nave dallo scafo rosso vivo e dalle vele bianche come la neve. La chiedilo a lei. La chiedilo a lei. Un enorme lampadario tutto gocce e pendenti di vetro, uno specchio rotondo con l'orologio al centro. Acquisto fatto all'estero dal capitano Abraham. Meraviglioso. Vorrei qualcosa del genere nella casa dei nostri sogni. Persino le ombre parlavano di tradizione. La signorina Ellen mi ha mostrato milioni di fotografie dei Pringle. C'erano anche alcuni daguerrotipi nelle custodie di pelle. Poi è arrivato un gattone tigrato che mi è saltato in grembo ed è stato immediatamente spedito in cucina dalla signorina Ellen. Si è scusata con me, ma credo che prima si fosse scusata con il gatto in cucina. La conversazione è stata condotta per lo più dalla signorina Ellen. La signorina Sara, una vecchietta vestita all'antica di seta nera, con i capelli bianchi come la neve, gli occhi neri come il vestito e le mani sottili dalle vene sporgenti, intrecciate in grembo tra volant di pizzo, aveva un'aria triste e dolce e sembrava troppo delicata anche per parlare. Eppure, Gilbert, ho avuto l'impressione che tutti i Pringle del clan, compresa la stessa signorina Ellen, obbedissero al suo cenno. La cena era squisita. L'acqua gradevolmente fresca, la tavola apparecchiata con biancherie e vasellame di pregio. Ci ha servite una cameriera compassata e aristocratica quasi quanto le padrone. Ma la signorina Sara fingeva di non sentire quando le parlavo e a me sembrava di soffocare a ogni boccone. Il mio coraggio era completamente svanito. Mi sentivo una mosca sulla carta moschicida. Oh, Gilbert, non potrò mai conquistare o sconfiggere la famiglia reale. Prevedo che darò le dimissioni a Capodanno. Non posso farcela contro un clan del genere. Tuttavia, ho provato una certa compassione per le anziane signorine, mentre facevo il giro della casa. Un tempo era stata viva. Lì tanta della loro gente era nata, morta, aveva gioito e conosciuto il sonno, la disperazione, la paura, la gioia, l'amore, la speranza e l'odio. A loro non sono rimasti che ricordi per cui vivono e di cui vanno fiere. Zia Cetti è molto agitata perché oggi, prendendo le lenzuola pulite per il mio letto, ha trovato una grinza al centro a forma di rombo e certa che preannunci una morte in casa. Zia Kate disprezza le superstizioni, naturalmente, ma a me non dispiacciono le persone superstiziose, sai, danno colore alla vita. Non sarebbe un mondo grigio se tutti fossero saggi, sensati e buoni? Di che cosa parleremo? 2 sere fa qui c'è stata una catastrofe. Dusty Miller è restato fuori tutta la notte, nonostante gli stentorei puss, puss di Rebecca Dew nel cortile. E quando alla mattina è comparso, quale vista! Aveva un occhio completamente chiuso, una mascella gonfia da far spavento, il pelo era incrostato di fango e una zampa era ferita. Però nell'occhio buono aveva un'impenitente espressione di trionfo. Le vedove erano esterrefatte, ma Rebecca Dew ha detto con esultanza: quel gatto non ha mai fatto una lotta come si deve in vita sua, ma scommetto che gli altri sono più malconci di lui. Stasera la nebbia sale dalla baia, cancellando alla vista la strada rossa che la piccola Elizabeth desidera esplorare. Erbacce e foglie secche bruciano in tutti i giardini della città e l'unione del fumo con la nebbia rende Spokes Lane un luogo irreale, pieno di fascino e di magia. Sta facendosi tardi e il letto mi dice: vieni a dormire. Mi sono abituata a salire le scale per entrare nel letto e a scenderle per uscirne. Oh, Gilbert, non l'ho mai detto a nessuno, ma è troppo divertente e va raccontato. Quando mi svegliai la prima mattina a Windy Willows, non ricordavo più nulla della scala e feci un agile balzo fuori dal letto. Crollai come un muro di mattoni, per usare un'espressione di Rebecca Dew. Fortunatamente non riportai ossa rotte, ma rimasi piena di lividi per una settimana. Io e la piccola Elizabeth siamo diventate buone amiche, sai? Viene lei tutte le sere a prendere il latte perché la donna è a letto con quella che Rebecca Dew chiama bruchite. La trovo sempre ad attendermi alla porta nel muro con i grandi occhi pieni della luce del tramonto. Parliamo attraverso la porta che non viene aperta da anni. Elizabeth sorseggia il latte lentamente per protrarre la conversazione e sempre, appena finito l'ultima goccia, si sente bussare alla finestra. Ho scoperto che una delle cose che accadranno nel domani sarà ricevere una lettera dal padre. Non ne ha mai ricevute. Mi chiedo cosa passa per la mente di quell'uomo. Sa, signorina Shirley, mi ha detto, non può proprio sopportare di vedermi. Però forse potrebbe scrivermi. Chi ti ha detto che non può sopportare di vederti? Ho chiesto con indignazione. La donna. Deve essere vero, altrimenti verrebbe a trovarmi qualche volta. Era Beth quella sera. Solo quando è Betta consente a parlare di suo padre. Quando è Betty fa di nascosto le boccacce alla nonna e alla donna. Quando diventa Elsie se ne dispiace e vorrebbe confessare ma ha paura di farlo. Rarissimamente è Elizabeth. E allora ha il volto di chi sente la musica delle fate e conosce il dialogo tra le rose e il trifoglio. È una creatura fuori del comune, Gilbert, sensibile come le foglie dei salici al vento e io le voglio bene. Mi rende furiosa sapere che quelle due terribili vecchie la privano dell'amore e dell'amicizia a cui avrebbe diritto. Sono certa che la nonna non le vuole male, ma non capisce, ecco tutto. Ma la donna gode a tormentarla. La piccola Elizabeth mi ha detto che la donna non le lascia la luce accesa di notte. La donna dice che sono grande abbastanza per dormire al buio. Ma io mi sento tanto piccola, signorina Shirley, perché la notte è tanto grande e terribile e c'è un corvo impagliato in camera mia e mi spaventa. La donna mi ha detto che se piango mi strappa gli occhi con il becco. Naturalmente non ci credo, signorina Shirley, ma ho paura. Di notte le cose bisbigliano tra loro. Ma nel domani non avrò mai paura di niente, nemmeno di essere rapita. Ma non c'è alcun pericolo che tu venga rapita, Elizabeth. La donna ha detto di sì, se vado fuori da solo o parlo con gli estranei. Ma lei non è un'estranea, vero, signorina Shirley? No, cara, ci siamo già conosciute nel domani, ho risposto. Capitolo 4. Windy Willows, Spooks Lane, 10 novembre. Carissimo, una volta la persona che odiavo di più era quella che mi spuntava il pennino, ma non riesco a odiare Rebecca Dew, nonostante l'abitudine che ha preso di usare la mia penna per copiare le ricette quando sono a scuola. L'ho fatto di nuovo e di conseguenza questa volta non riceverai una lettera lunga o appassionata, mio adorato. I grilli hanno ormai cantato l'ultima canzone. Ora le sere sono tanto fredde che ho in camera una panciuta stufetta a legna. L'ha messa su Rebecca Dew. Le perdono la penna spuntata, va. Non c'è niente che quella donna non sappia fare. E me la accende sempre quando ritorno da scuola. È una stufa minuscola che potrei tenere tra le mani. Sembra un cuccioletto nero piantato su quattro zampe arcuate di ferro. Ma se la riempi di legna piccola, si accende di un tenue rossore e sprigiona un caldo meraviglioso che allarga il cuore. Ora sono seduta qui, davanti, con i piedi appoggiati alla minuscola pedana. E sto scrivendo questa lettera sulle ginocchia. Stasera quasi tutta Summerside è al ballo di Hardy Pringle. Io però non sono stata invitata. E Rebecca Dew è tanto contraria che oggi non vorrei proprio essere Dusty Miller. Ma quando penso che Myra, la bella e stupida figlia di Hardy, in una prova scritta ha cercato di mostrare che gli angeli di base di un triangolo isoscele sono uguali, mi sento pronta a perdonare tutto il clan dei Pringle. E la settimana scorsa ha inserito il boia in un elenco di serpenti. A dire la verità, non tutti gli strafalcioni sono opera dei Pringle. Di recente Blake Fenton ha definito l'alligatore un grande insetto. Ecco i momenti esaltanti della vita di un insegnante. Stasera ha l'aria di voler nevicare. Mi piacciono le serate che promettono neve. Il vento soffia presso la vetta di una torre antica e la mia accogliente cameretta sembra ancora più accogliente. Stasera l'ultima foglia gialla abbandonerà i salici. Eh sì, credo di essere ormai stata invitata a cena dappertutto. Voglio dire a casa di tutti i miei allievi. Sia in città che in campagna. Oh, Gilbert, caro, sono stufa della confettura di zucca. Cancelliamo per sempre la confettura di zucca dalla casa dei nostri sogni. In quasi tutte le case in cui sono stata nell'ultimo mese mi è stata offerta la confettura di zucca. La prima volta mi è piaciuta da pazzi. Era dorata e mi sembrava un concentrato di sole e mi sono incautamente mostrata entusiasta. Così si è sparsa la voce che io adoro la confettura di zucca e tutti se la procuravano apposta per me. Ieri sera ero invitata dagli Hamilton e Rebecca Dew mi ha assicurato che non ci sarebbe stata la confettura di zucca perché agli Hamilton non piace. Ma quando siamo andati a tavola ho visto sulla credenza l'immancabile coppa di cristallo piena di confettura di zucca. Io non faccio la confettura di zucca, ha detto la signora Hamilton, versandomene una generosa porzione, ma ho sentito dire che è la sua passione. Così domenica scorsa, quando sono stata da mia cugina alla Lowvale, le ho detto: questa settimana verrà a cena da me la signorina Shirley e ha una passione vera per la confettura di zucca. Potresti prestarmene un vasetto per lei? Ed eccola qua, tutta per lei. Può portarsi a casa quella che avanza. Avresti dovuto vedere la faccia di Rebecca Dew quando sono tornata dalla cena con un vasetto pieno per 2/3 di confettura di zucca. Qui non piace a nessuno. Così l'abbiamo seppellito in giardino in gran segreto nel cuore della notte. Non lo metterai in una storia, vero? Mi ha chiesto preoccupata. Da quando Rebecca Dew ha scoperto che scrivo racconti per le riviste, vive nella paura, o forse nella speranza, che racconti su carta tutto quello che succede a Windy Willows. Mi esorta a spifferare tutto sui Pringle e a sistemarli per le feste. Ma ahimè, sono i Pringle che sistemano me, e tra loro e la scuola non ho molto tempo per la letteratura. Ora nel giardino ci sono solo foglie secche e steli gelati. Rebecca Dew ha coperto di paglia le radici delle rose e le ha avvolte in sacchi da patate. Alla luce del crepuscolo sembravano un gruppo di vecchi curvi appoggiati al bastone. Oggi ho ricevuto una cartolina da Davy, cosparsa di baci e una lettera di Priscilla scritta sulla carta che le ha mandato un amico dal Giappone. È sottile e liscia come seta, con sfocati fiori di ciliegio simili a fantasmi. Incomincio ad avere dei sospetti su questo amico. Ma la tua bella letterona è stata il dono più prezioso della giornata. L'ho letta 4 volte per gustarla bene, come un cane che lecca il piatto. Non sarà una similitudine romantica, ma è la prima che mi è venuta in mente. Ma le lettere, per quanto belle, non mi soddisfano. Voglio vederti. Per fortuna, mancano solo 5 settimane alle vacanze di Natale.